headlights are on. Eccoci qua, come avrete intuito, l'Allegro con fuoco andava in replica, l'abbiamo dovuta sfumare per andare in onda noi alle 21.01 qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Spazio che andrà avanti sino alle 22.30, come al solito poi ci sarà 25 o'clock. www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità anche di sentirci via streaming. Il telefono allo 06491750, l'indirizzo di posta elettronica anche per appunto per comunicare con questa emittente è ondarossa@ondarossa.info. Per quanto riguarda la possibilità di sottoscrivere per questa realtà da sempre autogestita, c'è sia il conto corrente postale 6180 4001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via Voce 56 00185, a Roma, e anche altre modalità più elettroniche, il tutto ovviamente nel sito stesso. Salutiamo Maya e Nicola dalla Sardegna, Nicola Locci, Marco qui da Roma, Deborah a Nettuno, Enrico Cerrato alias Petrolio ad Asti, Laura da Frosinone, Jean-Claude Bertot, lo salutiamo anche se questa sera non ci può sentire, lui in genere ci ascolta dalla Val d'Aosta. Sempre nel nord, Lucia Cagliazza come Lupsi da Udine, di lei tra poco uscirà, anzi già è uscito, ma noi lo ascolteremo presto, un suo nuovo lavoro. Like Away che qui da Roma, anche lui ottimo musicista. Antonio Zoviet, Omicidio da Firenze. Giovanni Lisi, se non erro, da Taranto, anche se lui ha un qualche problemino con l'ascoltarci attualmente. Paolo qui, la new entry, ormai non più new entry, qui da Roma, un grosso abbraccio anche a lui. E quindi a questo punto noi si va ad iniziare. Appunto con Giovanni Lisi, sperando che nel frattempo abbia sistemato il tutto. Qualche giorno fa ha ristampato il primo lavoro del 1989 dal nome semplicemente Cordis Cincti Serpente numero 1, appunto per festeggiare il 30° anniversario da quella uscita, e quindi una provvidenziale ristampa per un lavoro che allora uscì soltanto su cassetta attraverso la Minus Abbens Records e attraverso anche la collaborazione dello stesso Ivan Iusco. Artefice di questa ristampa è il sempre presente Raffaele Pezzella, che salutiamo. Un'opera che invece uscì allora con l'Industrial Holocaust Recordings, etichetta di Mario Cardinale. Potrete apprezzare il profondo approccio ritualistico di questo album, un album scurissimo che si apre con questa traccia che ci andiamo ad ascoltare, si chiama The Sword of the Lord. 30 anni portati ottimamente. Ad essere assaggia la ristampa di questo primo lavoro di Cordis, Cincti Serpenti di Giovanni Lisi. Ideale colonna sonora per un sabba. Un sabba magico. Ritualismo a go-go in questa traccia iniziale, The Sword of the Lord, che effettivamente non solo a me ha ricordato i primissimi lavori di Current 93, quelli di Nature Invalid e Dog's Blood Rising. Album effettivamente molto evocativo. Ricordiamo anche l'ausilio di Ivan Iusco. Ricordiamo l'Industrial Holocaust Recordings di Mario Cardinale, che ha reso possibile questa operazione. Ricordiamo che, leggo qui, non a caso, 93 erano le copie segnate. Anzi, è riferimento proprio a questa ristampa, ristampato in 93 copie. Ho la fortuna di averne una, ringraziamo di questo Giovanni. Abbandoniamo parzialmente questi temi così plumbei e andiamo nel nord Italia, Brescia, con Aima Project, il 50% di Les Chemeurs Discordants, quel progetto gestito a metà con Giovanni Dal Vecchio degli Gotica. Ebbene, l'anno scorso Aima ha stampato questo album molto interessante con l'ausilio di vari artisti italiani e non. Un album che porta il nome di Aiku Irregolare in forma di musica. Questa sera tre tracce abbastanza brevi. Coldness con l'ausilio di Northgate, conosciuto anche nei Camerata Mediolanense. Poi ci sarà Disgregazione Temporale con Miel Noir e Entupan con Nicolas Guerrero. Yeah. Ancora Ima Project da questo Aiko. Aiko irregolare in forma di musica. Salutiamo anche Antonella e Silvia qui a Roma. L'algido incedere di queste avvolgenti trame sonore per quanto riguarda Ima Project. Un ottimo lavoro, un'ottima voce quella da Ima Project. Il punto di partenza sono anche una certa epicità, le atmosfere gotiche che poi si vanno anche a sviluppare, come saggiamente ci dice Antonio, in un qualcosa che può ricordare anche la Space Ambient, anche un qualcosa della scuola del Warp. La Warp Music, per esempio, di Borzo Canada. Anche se qui c'è qualcosa di più misterico e di anche qui di ritualistico, al pari di Cordis e Cinque di Serpente. Luce scivola al centro, scintilla, frammenti la notte. Mi sento di consigliare tutto il repertorio, sia di Ima Project sia di Les Jumeurs Discordants. tra le migliori espressioni in questo tipo di sonorità qui in Italia. Benvenuto intanto anche a Raffaele Pezzella, che come abbiamo detto prima è stato anche artefice della ristampa di Cordis Cinti Serpente, e adesso invece ci apprestiamo all'ennesimo passaggio, e con molto piacere, di Anthology of Contemporary Music from Middle East, suoni dal Medio Oriente, di vari paesi di quell'area geografica, Europa, Asia, Africa insieme. Dalla Palestina, ebbene sì, dalla Palestina, Faroa Chromium. Il brano in questione si chiama Gaza Requiem, particolarmente significativo e intenso. Eccolo qua dunque, Faroa Chromium. Lui è Gazi Barakat in arte Faroa Chromium. Ringrazio Raffaele Pezzella anche di averci dato qualche delucidazione sull'origine di questo musicista. Il nome del gruppo prende spunto da un vecchio brano dei Chrome, qualcuno se li ricorderà. C'è anche un profilo Bandcamp da seguire assolutamente, e per i miei gusti una delle migliori tracce di questo lavoro di Raffaele Pezzella, assemblato da Raffaele Pezzella, che mette insieme tanti tanti musicisti dell'area medio orientale, che racchiude appunto parte dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa. Si chiama Middle East Music Survey, Anthology of Contemporary Music from Middle East, un vero e proprio manifesto in questo titolo, un brano vero e proprio di escapismo mentale, un grande momento di musica, devo dire. E ringraziamo ancora di questo Raffaele, che ci delizia con queste compilation meravigliose, che ho il piacere di mandare e di far conoscere anche ad altri. Dunque, un nome da seguire questo Faroa Chromium, vera e propria rivelazione, devo dire. E da una novità che almeno io cercherò di dipanare in futuro, a una vera e propria certezza, che prende il nome di Deutsch Nepal. Deutsch Nepal, che non sbaglia un colpo, e lo fa anche questa volta con Staring at My Wall, ultimo lavoro. Questa sera ho scelto la quinta traccia dal nome Butterfly. Ero dimenticato, ho saluto anche Manu Fais, Pioggia d'Ambra e tante tante cose ancora. Un saluto a Manu Fais e ci gustiamo questi Deutsch Nepal Butterfly. Ore 21:40. Splendida forma, Deutsche Nepal, una delle migliori uscite di questo 2019, a parer mio, questo Staring at My Wall. Suntuoso veramente questo album, Deutsche Nepal. Un saluto anche ad Antonella dalla Sicilia. C'è anche un brano dedicato a Pasolini, questo che è partito, che ci ascolteremo la prossima settimana. Noi andiamo avanti, ricordo ancora una volta, questa è Radio Onda Rossa 87.9, nella banda della modulazione di frequenza, perché noi la frequenza lo abbiamo ancora, c'è chi se l'è venduta, noi no, andiamo avanti. Naturalmente però c'è anche il sito web, che è www.ondarossa.info. Dai sotterranei inglesi, ecco qua, U731, si chiama Oh By All Means, un lavoro molto interessante di qualche annetto fa, con anche delle partecipazioni, per esempio Andrew Grant in questa By All Means, brano omonimo, un artista che milita anche nel Vomit Arsonist, e quindi siamo un po' a metà tra Death Ambient e Industrial Noise. Eccola qua la lunga By All Means per U731. Concentration of artillery. Nor were the seas, as I have said, themselves free. They have brought back are the measure of their devotion and their courage.